6 A. Ascolta e rispondi. Ti ricordi tutto? Sì, mi ricordo tutto. Ti trovi bene qui? Sì, mi trovo bene qui. Ti fermi una settimana? Sì, mi fermo una settimana. Ti riposi? Sì, mi riposo. Ti stanchi? No, non mi stanco. Ti trucchi? No, non mi trucco. Ti diverti? No, non mi diverto. Ti prepari per la cerimonia? No, non mi preparo per la cerimonia.